facendo il rapper, yeah. Scappavo dai fasci con le mazze, merde. Col marchiere aperto nelle tasche, Fede. Le guardie, i pompieri e le ambulanze, dalle prime ho preso le distanze, yeah. Perché ti controllano le tasche, se ti trovano qualcosa poi dicono grazie, Fede. Imboscavo tutto nelle case, ah. Giocavo a calcio, non giocavo a basket, yeah. Ballavo la tech con Michael Pazzer, scoprivo le droghe con i compagni di classe, Fede. Adesso vivo solo sul rullante, se mi ci sfidi sopra fra ti lascio mutande, sono il più grande, ah. Di merda che rappa che puoi trovare su quell'Atlante. Noi ci abbiamo creduto quando non ci credeva nessuno. Poi ci abbiamo visto quando non ci vedeva nessuno. Fermi imbottigliati dentro a una bufera di fumo. Perché un'altra via d'uscita, frate, non c'era, ti giuro. Frate, non c'era, ti giuro. Perché un'altra via d'uscita, frate, non c'era, ti giuro. Quando ci ripenso adesso sorrido perché so che arriverà il mio momento. Anche se non mi vogliono qua, io ci sono stesso. Anche se non mi vogliono qua, io ci sono stesso, frate. Anche se non mi vogliono qua, io ci sono stesso. Sono stesso frate. Non me ne vado, oh. Non me ne vado, oh. Non me ne vado. Quanto tempo è passato, tu che ne sai? Quanto tempo ho buttato a fare freestyle? Prima delle fighe in video, dei palchi ai locali, ho fatto i salti mortali come in Alpine. Fare rime finché mancava l'ossigeno, mentre i miei amici entravano ed uscivano. Sono sempre stato pazzo dello Stato, non me ne fottevo un cazzo tipo Alfredo con il Libano. Era un sogno ad occhi aperti, fase REM. Con il cazzo duro se sapevo di una gem. Mi ricordo ancora quando ho conosciuto Gem. Era un perfetto sconosciuto proprio come me. Stessa roba mad, per noi fare rap era come fare Matt in Breaking Bad. Alcuni di noi ce l'hanno fatta, man. Altri no, sono falliti come l'Alcatel. Sono 10 anni che dicono presto non ci sarai più. La realtà è che stasera frate su quel palco non ci sarai tu. Parlate di me, io che non so nemmeno cosa cazzo fate. So che non mi vuoi qua, cazzi tuoi, io ci sono stesso frate. Anche se non mi vogliono qua, io ci sono stesso. Anche se non mi vogliono qua, io ci sono stesso frate. Anche se non mi vogliono qua, io ci sono stesso. Sono stesso frate. Non me ne vado, oh.